Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata e buon venerdì a tutti da Deborah Rosciani. Ben trovati a Salva Danaio. La settimana finanziaria che si chiude oggi ha dato dei segnali di maggior serenità rispetto a quelli che invece vediamo da mesi. Non è che lo scenario di fondo sia cambiato molto. L'economia reale vive una delle stagioni più difficili che abbia mai visto, ma questa settimana la borsa ha voluto guardare oltre, forse più avanti, a quando la ripresa arriverà. Oggi il collega del Sole 24 Ore, Moria Longo, scrive: il motivo del rally della borsa partito il 9 marzo è abbastanza scontato. Le borse hanno perso così tanto che una ripresa era nei numeri, per motivi tecnici ma anche per ragioni fondamentali. E allora oggi noi cercheremo di analizzare queste ragioni, cercando di capire anche se, come dire, questa primavera, così l'abbiamo definita sui mercati, è destinata a durare, o se una rondine non fa primavera, come dice anche il proverbio. Insomma, dove stiamo andando? La crisi è passata, ha toccato il fondo. Oggi cercheremo di analizzare tutto questo insieme a Giorgio Mascherone, responsabile investimenti di Deutsche Bank in Italia, e Marco Brambilla, direttore generale di Decabank. 800 24 00 24, avete l'opportunità come sempre di movimentare, se vorrete, la nostra trasmissione con le vostre considerazioni sul tema di questa mattina. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. E allora oggi possiamo dare un po' più spazio anche al resoconto della borsa di giornata. Seduta nervosa, volatile, era partita in negativo dopo i rialzi degli ultimi giorni. Vedo che però c'è già di nuovo qualche segnale di cambio di direzione. Sono ancora negative le piazze francese, meno 0,3%, Parigi, Londra meno 0,53%, mentre cambia direzione Francoforte, più 0,26% in questo momento per il DAX 30, il principale indice della borsa tedesca. Milano addirittura più 1,21%. In questo momento Milano si è distinta da tutta la settimana dalle altre piazze europee per merito del settore bancario, che anche stamattina sta trainando appunto la seduta della borsa italiana. Il miglior titolo è A2A, sta guadagnando il 4%, quindi un po' di attenzione anche al ramo delle utilities. Tenaris più 2,93%, il Banco Popolare più 2,94%, Popolare di Milano più 2,83%, Unicredit più 2,61%, il titolo si riaggancia a 1,25€, poi Generali più 2,32€. Un po' più complicata la seduta di Banca Intesa San Paolo, e qui abbiamo una certa attenzione oggi su questa società, su questa banca, perché c'è attesa per i conti del 2008. Secondo le indiscrezioni di stampa, i vertici dell'istituto dovrebbero anche oggi annunciare un azzeramento del dividendo della cedola, e poi dovrebbero anche essere formalizzate da parte dell'amministratore delegato Corrado Passera le intenzioni di fare ricorso ai Tremonti Bond, una cifra di 4 miliardi di euro all'incirca dovrebbe essere chiesta, la stessa cifra che si appresterebbe a chiedere anche Unicredit, anche se Unicredit non chiede tutte le obbligazioni di Stato al governo italiano, ma dividerà un po' l'ammontare anche con il governo austriaco. Tra gli altri titoli da segnalare oggi, Unipol meno 8,68%, ma anche qua, dopo il volo di ieri, oggi per Unipol c'era anche da attendersi una serie di prese di beneficio, forse non erano contemplate così pesanti, ma comunque meno 8% per il gruppo assicurativo. STM meno 5, Bulgari meno 3, Mediaset meno 1,93, L'Espresso meno 1,89, tanto per cominciare, tanto per cambiare, una giornata difficile per il settore editoriale. E anche Fiat, che perdeva più di 4,5 punti, stamattina è ancora negativa, ma adesso limita i danni ad un meno 1,27%. La considerazione più interessante, probabilmente poi la svilupperemo anche nel corso della trasmissione, oggi la merita ancora il rapporto di cambio euro su dollaro a 1,3583. Stamattina il rapporto aveva aperto a oltre 1,37, era 1,30 pochi giorni fa. Uno strappo violentissimo, un calo fortissimo del dollaro in questi giorni, addirittura il calo più violento da 24 anni a questa parte, è stato calcolato. Ne spiegheremo le ragioni. C'è questa iniziativa della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, che comprerà titoli di Stato statunitensi nei prossimi 6 mesi per un ammontare molto consistente. Questo ha provocato appunto questa oscillazione così forte. Ne parleremo nel corso della trasmissione. Questo è il quadro di questa mattina, ma naturalmente ci focalizzeremo per tutta Salva Danaio oggi sui mercati. Come interpretare questo buon andamento delle ultime sedute? Insomma, dobbiamo sperare in una ripresa un po' più duratura o è una brevissima fiammata? Sentiamo intanto la nostra scheda. È sbocciata la primavera sui mercati? Troppo presto per dirlo, ma in molti hanno guardato con un grande sospiro di sollievo ai timidi segnali di ripresa degli ultimi giorni, dopo il gelo dell'inverno finanziario. La settimana di borsa si è aperta con il piede giusto, all'insegna delle dichiarazioni del presidente della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke, che si è detto ottimista circa la possibilità di una ripartenza dell'economia già a inizio del prossimo anno. Sui listini, però, l'attenzione è ancora prevalentemente rivolta al comparto bancario, in particolare guardando a Piazza Affari, dove la scena è stata dominata dai movimenti del settore. Prima l'annuncio della richiesta dei Tremonti Bond, poi l'offerta pubblica di acquisto su Italease hanno fatto del Banco Popolare uno dei protagonisti delle ultime sedute. Ma a catalizzare l'attenzione è stata soprattutto Unicredit, che ha presentato i conti superiori alle attese degli analisti. Inoltre, anche l'istituto di Piazza Cordusio ha formalizzato la richiesta dei Tremonti Bond. Sullo scenario internazionale, Wall Street ha festeggiato la decisione della Federal Reserve di mantenere i tassi di riferimento tra lo 0 e lo 0,25%. La Fed ha anche annunciato un piano di acquisto di titoli di Stato a lunga scadenza, nel tentativo di aiutare l'economia alle prese con la recessione. Anche per l'euro è stata una settimana positiva. Dopo lo sprint di lunedì, che l'ha visto raggiungere quota 1,3, il rapporto euro-dollaro si proietta verso i livelli di fine 2008, 1,4. Ancora lontano comunque dal record di luglio, 1,5. Il biglietto verde non è riuscito a recuperare nonostante i buoni dati macroeconomici, in particolare il superindice USA, che a febbraio ha registrato un meno 0,4% a 98,5 punti. Insomma, elementi positivi con un piccolo neo. La ripresa del prezzo del petrolio, tornato sopra la soglia dei $50 al barile. Soglia che al momento non sembra disturbare più di tanto i mercati, non so se si fermerà qua. L'OPEC auspica un livello di $70 al barile, però insomma l'importante è che rimaniamo ben lontani da quei 150 che abbiamo visto il luglio scorso. Allora, buongiorno e grazie di essere tornata a Salva Danaio, a Giorgio Mascherone, responsabile investimenti di Deutsche Bank in Italia. Grazie a voi. E bentornato anche a Marco Brambilla, direttore generale di Decabank. Buongiorno. Ci scherzavamo prima a microfoni spenti, oggi Salva Danaio parla completamente in tedesco, perché vabbè, per Deutsche Bank non c'è bisogno di raccontare che cosa sia questa realtà. Decabank forse è un filino meno conosciuta, però insomma è una banca di investimenti delle casse di risparmio tedesche, Brambilla. L'abbiamo presentato anche un'altra volta. Sì, assolutamente, facendo mercato istituzionale prevalentemente. Ovviamente siamo dedicati alla gestione dei portafogli degli operatori finanziari. Mm-hmm. Allora, vabbè, poi a prescindere dalla casualità che vi ha messo insieme questa mattina, alla quale io ieri non avevo pensato quando ho chiamato gli ospiti di Salva Danaio, però probabilmente può essere interessante anche questo punto di vista, anche perché questa mattina in realtà leggo dalle agenzie, c'è una notizia interessante che adesso vi leggo, secondo la quale appunto il Parlamento tedesco si appresta a varare una legge che renderebbe obbligatorio il salvataggio di banche in procinto di fallire, per cui insomma si vuole blindare una normativa di questo tipo, forse perché Mascherone c'è qualcuno che... Direi che c'è qualcosa che trema... le fondamenta, ma direi che se ne parlava da qualche mese ormai, quindi credo che fosse stata la stessa cancelliera, la Merkel, qualche settimana, mese fa ormai, ad auspicare un intervento di questo genere, che avrebbe comunque permesso al governo di intervenire senza bisogno di ulteriori discussioni, visto che è inevitabile che in Europa c'è un decisionismo, e in Germania sicuramente superiore a quello a cui siamo abituati nel nostro paese, comunque non paragonabile a quello degli Stati Uniti, dove in 448 si interviene pesantemente con le mani libere. Qui inevitabilmente ci sono altri vincoli, e quindi il governo tedesco auspicava che il Parlamento lo potesse autorizzare a intervenire in questo caso. È ovvio, sappiamo e parliamo da tempo di banche tedesche che possono essere in difficoltà, così come un po' dappertutto per la verità, ma direi che non mi sembra di poter dire che ci siano dei nomi diversi da quelli di cui abbiamo sentito parlare nei mesi scorsi. Comunque questo è un tema adesso così che mi era venuto in mente di affrontare con voi, giusto perché avevo visto questa agenzia. Quello che ci interessa invece è capire se questa tendenza che le borse hanno registrato nelle ultime giornate sarà duratura, sarà un rally primaverile con qualche fondamenta. Allora cominciamo proprio a ragionare su questo. Marco Brambilla, cosa pensa di questa primavera sui mercati, così l'abbiamo definita in questo modo, anche perché almeno in questa maniera stamattina rassicuriamo un po' tutti quegli ascoltatori che ci contestano sempre, ma insomma quando le giornate sono pessime le enfatizzate all'infinito, quando invece c'è una tendenza positiva perché non ne parlate, non ci ragionate su. Eccoci qua, Brambilla. Ma io ho un po' di tempo che stiamo dicendo che insomma un giorno prima o poi i ribassisti se ne andranno in vacanza, e con la bella stagione sicuramente qualcuno cominciato ad andarci. Detto questo, assolutamente le discese delle borse, in particolare in alcuni settori italiani, europei o americani, sono stati talmente violenti nell'ultimo anno che veramente ormai non c'era più nessuna correlazione fra i dati espressi dalle valutazioni borsistiche e l'effettivo valore delle aziende. Quindi quello che abbiamo visto nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni per quanto riguarda il settore bancario, non è altro che sicuramente una cosa aspettata, ma soprattutto gli operatori stanno incominciando, gli investitori istituzionali e di conseguenza anche il retail sta ritornando a guardare lentamente i valori patrimoniali delle aziende, i valori di valore concreto delle aziende. Il settore bancario, che è sicuramente sotto i riflettori, diciamo che il nostro sistema bancario è un sistema bancario assolutamente stabile, è di molto concentrato per il 50% del mercato in mano alle prime 4-5 banche, è molto diversificato per quanto riguarda il resto del 50%, e assolutamente sano, nel senso che la maggior parte delle operazioni che hanno incriminato un po' gli istituti americani da noi sono veramente latenti. Quindi i prezzi che il sistema bancario oggi sconta, tuttora, perché ci sono alcune realtà che veramente sono molto al di sotto delle valutazioni, non rispecchiano assolutamente la qualità del sottostante. Ricordiamoci anche che il sistema delle casse di risparmio, il sistema delle banche popolari, è uno dei, in Europa addirittura per quanto riguarda l'Italia, uno delle strutture finanziarie bancarie più sane e attente che ci siano. Ricordiamo inoltre che ultimamente guardavo gli andamenti degli utili attesi, degli utili che verranno fatti da banche di medie e piccole dimensioni, ci sono tutti i numeri a due cifre, con una solidità patrimoniale sicuramente al di sopra della media europea. Ecco, però questo non toglie che, anche se poi quello che è successo in borsa nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, ha davvero dato ragione rispetto a questo giudizio sulla solidità delle banche italiane, questo non toglie poi che nel momento in cui arriva una notizia negativa che riguarda anche una banca lontanissima da noi, il nostro sistema non venga travolto dall'atteggiamento degli operatori. Detto questo, però, c'è una tendenza che a me incuriosisce molto spesso. Io abbiamo osservato, adesso io faccio un caso particolare, poi ovviamente non vi chiedo di giudicare esattamente quello perché so che non è nella vostra politica, però per esempio uno dei temi della settimana, lo dicevamo anche nella nostra scheda, è stato il Banco Popolare. Fa la richiesta di Tremonti Bond e vola in borsa, lancia l'OPA su Banca Italease e crolla letteralmente, perché non abbiamo visto un calo di due punti, ma ho visto un calo di due cifre. Nel giro di 2 giorni si stemperano le notizie, Unicredit dai dati ed è il Banco Popolare ancora a volare. La banca è sempre quella. Giorgio Mascherone, perché c'è un atteggiamento così volatile da parte degli investitori? Ma l'ha detto anche il collega, credo che ci sia molta irrazionalità negli ultimi mesi, che ormai sono già più di qualche mese, più di un anno praticamente, perché stiamo parlando ormai da più di un anno di una situazione di questo tipo. Ma direi che è una questione anche di simpatia, nel senso che le borse americane hanno cominciato a soffrire per prime, le banche italiane non sono così coinvolte, ma per simpatia sono crollate a loro volta. E poi di volta in volta, prima cede una, poi cede l'altra, ma se andiamo a guardare anche banche molto differenti fra di loro per tipologia di mercato, per capitalizzazione, hanno perso più o meno gli stessi valori. E di qui il nostro listino, intendo l'S&P MIB, è stato quello che ha pagato di più, perché quello che in partenza era quello più pesante dal punto di vista finanziario, la capitalizzazione della finanza pesava circa il 50%. Quindi inevitabilmente è una situazione che va allargata poi a quello che l'investitore, quando si parla di finanza, dice: oddio, qui c'è qualche situazione pericolosa. Quindi non guarderei nello specifico, perlomeno non esattamente nello specifico, perché sono assolutamente d'accordo anch'io che soprattutto le banche italiane non rischiano quello che hanno potuto rischiare fino a poco tempo fa le banche americane, però inevitabilmente sono della stessa famiglia, ormai il mondo va verso la globalizzazione, quindi inevitabilmente ne sono coinvolte. Comincerei a sentire i nostri ascoltatori, visto che già stanno bussando, non dire, la porta al nostro microfono. E allora cominciamo con Giuseppe da Roma. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io ho ascoltato con attenzione il dottor Brambilla su quello che diceva, e intanto volevo fare un'osservazione. Cioè, secondo me Per quanto riguarda la volatilità attuale, diciamo, del mercato, non dimentichiamoci che molto è dovuto a un grosso numero di persone, diciamo di operatori, di coloro che fanno generalmente il trading online, che operano allo scoperto. Per cui questa volatilità praticamente ritengo sia dovuta anche a questo, cioè ci sono dei picchi in discesa e altrettanto picchi in rialzo dovuti alle ricoperture. Quindi questo secondo me è uno dei motivi, insomma. Anche se poi in passato c'erano stati un po' dei provvedimenti, esatto, che volevano limitare queste operazioni, esatto, per limitare. Nella realtà secondo me ben pochi hanno rispettato, a cominciare dalle stesse banche o comunque dalle società che fanno operare, ben pochi hanno rispettato queste direttive. Quindi noi continuiamo ad avere un mercato estremamente volatile anche per questi motivi, no? Questa è una cosa. Poi anche se un po' meno, diciamo, rispetto a settembre-ottobre, quando, come si ricorderà Giuseppe, vedevamo in certe giornate più 10, meno 10, quindi quantomeno adesso. Esatto, però sicuramente il mercato risente ancora di queste cose. Comunque, la mia domanda poi era diciamo, rivolta alla situazione in particolare delle banche, sì. Cioè, come mai oggi, diciamo, probabilmente si avrà il bilancio, per esempio, Banca Intesa San Paolo, sì. Sì, Intesa San Paolo. Io mi chiedo come mai finora non si è mai potuto conoscere, non in dettaglio, ma con una situazione, con un bilancio anche provvisorio, qual era l'entità effettiva del passivo, chiamiamolo così tra virgolette, del passivo teorico o del rischio teorico che le banche avevano, a cominciare dall'Unicredit che opera in particolare all'estero. Come mai finora nessuna banca è riuscita, anche se, voglio dire... Si può sintetizzare, Giuseppe, se no devo dare tutta la trasmissione a lei. Sì, cioè, le banche, voglio dire, hanno un loro bilancio, perché non è sotto all'attenzione di tutti il rischio, diciamo, derivante dai mutui e da tutti queste operazioni. Giuseppe, ma lei fa un discorso internazionale oppure si focalizza sulle banche italiane, perché abbiamo già spiegato mille volte che la situazione è molto diversa? Vabbè, partiamo dal generale, Giuseppe, per poi magari così focalizzarci invece sulle banche italiane. Allora, Brambilla, riprendiamo con lei. Il tema è che era molto difficile quantificare, lo è tuttora, i cosiddetti asset tossici in bilancio delle principali istituzioni finanziarie internazionali. Sì, vorrei però fare una precisazione sul discorso del signore, anche perché è un aspetto molto interessante di quello che sta succedendo sui mercati, che è un processo iniziato un anno fa e di cui oggi incominciamo a trarne i benefici. Le operazioni di la situazione di altissima volatilità dei mercati e di, come dicevi prima, della assoluta volatilità e non congruenza tra rialzi immediati e discese, è derivante dal fatto che c'è stata un'operazione chiamata tecnicamente enorme operazione di deleveraging, ovvero di diminuzione degli investimenti fatti a debito. Lo smaltimento di questi. Lo smaltimento dei debiti. Chi lavora a debito sono i grandi operatori finanziari chiamati hedge fund, domiciliati nel mondo. Ce ne erano più di 11.000 un anno fa, se ne contano sul campo ad oggi, si stimano 7.000, quindi c'è stata una discesa, una distruzione di questi operatori enorme, del 30-40% solo nell'ultimo anno. Questo cosa significa? Che loro sono stati costretti, per le richieste di rientro delle banche dei soldi prestati, a vendere posizioni che probabilmente dal punto di vista tecnico fondamentale non avrebbero venduto. Sono stati obbligati. Questo però cosa significa ad oggi? Che c'è un sistema che sarà sempre più sano, ripulito da tutte quelle operazioni che sono state fatte tecnicamente esclusivamente a debito. Stiamo parlando di volumi giganti che hanno influenzato e hanno il potere non coordinato ma comunque in modo globale di influenzare gli andamenti di borsa. Quindi questo è il motivo principale e la grande operazione che noi chiamiamo di pulizia, se vogliamo, che probabilmente non che si è ancora esaurita. Non si è ancora esaurita, ma il grosso è stato fatto sicuramente. Mm-hmm. Tornando alla domanda del signore, questo non è la trasparenza. Prima di tutto bisogna sottolineare che i bilanci delle banche italiane, il modello sul quale vengono effettuati, è sicuramente totalmente trasparente, mm-hmm. utilizzato in tutta Europa. Detto questo, la complessità di andare a puntualmente a valorizzare investimenti che vengono effettuati anche con operazioni di derivati in momenti di mercato di altissima volatilità e sicuramente di mancanza di liquidità di alcuni titoli è una operazione molto complessa. Sicuramente il management delle banche, noi abbiamo una visione puntuale, però chiaramente non si può, il valore di oggi può essere diverso dal valore di domani. Salvadanaio ritorna, preso a pretesto queste buone giornate di borsa che stiamo vedendo da qualche giorno, per cercare di capire se nascondono una volontà di mantenere una tendenza duratura, di farci stare tranquilli almeno in questa primavera, o se invece è tutto un fuoco di paglia e, visto che l'economia reale insomma manifesta ancora ogni giorno, lo vediamo dai dati macroeconomici che vengono diffusi, delle preoccupazioni, delle tendenze piuttosto preoccupanti, e allora questa borsa insomma non rappresenta esattamente quello che potrà accadere anche dal punto di vista dell'economia reale. I temi che si sono manifestati in queste ultime giornate li abbiamo raccontato: grande attenzione ai titoli bancari, soprattutto nel nostro paese, i conti delle banche che sono andati meglio del previsto, come è successo per esempio per Unicredit, ma insomma ci basta tutto quello che stiamo vedendo, tutto quello che abbiamo visto in questi ultimi giorni, o dobbiamo, come dire, guardare con una certa prudenza a questa tendenza? Ne stiamo parlando stamattina con Marco Brambilla, direttore generale di Decabank, e Giorgio Mascherone, responsabile investimenti di Deutsche Bank in Italia. Abbiamo esaurito il discorso sull'atteggiamento dei fondi speculativi, anche se poi mi contestano i rappresentanti dell'industria degli hedge fund di dare questa definizione, però di fatto sono insomma grandi fondi di investimento che possono operare a debito e quindi possono movimentare notevolmente il mercato, molto di più rispetto ovviamente a piccoli tagli di investimento. E abbiamo parlato anche dei bilanci delle banche, gli asset tossici, come è difficile quantificarli. Adesso andiamo oltre con Carlo da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Sarò estremamente sintetico. Bravo Carlo. Secondo me la crisi è finita. Ci sono dei movimenti di borsa positivi perché ci sono dei segnali positivi di ripresa. Non so, il più 22% dei mutui negli Stati Uniti nel mese di febbraio contro il meno 14, alcuni piccoli indicatori in Germania, lo Zen, come diavolo si chiama. Lo Zen. Lo Zen hanno avuto una Zen, sì, un'altra cosa. Lo ZEV, no, ma non si preoccupi, l'IFO, lo ZEV, ci sono questi indicatori di fiducia. Comunque va bene. Piccoli indicatori, le banche hanno, tutti quelli che hanno dei capitali da investire, ce ne sono tanti, a un certo momento, vendendo l'Unicredito che era quasi vicino al nominale, chiedono un rimbalzo tecnico e a un certo momento incominciano a investire. Comunque la crisi non è finita, secondo me, a mio giustissimo parere, e a un certo momento finirà quando incominceranno le industrie a riprendersi, perché forse una cosa che i mercati oggi hanno detto è che il mercato è molto più vicino oggi alla realtà economica della nazione, delle industrie e di tutte le nazioni, piuttosto che alla realtà finanziaria che si è visto essere, per definirla con un eufemismo, allegra. Sì. Per Carlo, cui, sì. Mi dica. No, volevo invitarla a concludere se ci riusciamo. Concludendo, secondo me noi siamo su dei mercati che piano piano riprenderanno con molta lentezza, con altri sbalzoni in su e in giù, quando riprenderanno le industrie. Le industrie riprenderanno, trascineranno le materie prime trascineranno un'inflazione che con i miliardi che sono stati spesi sarà a due cifre, i tassi ritorneranno su e in quel momento ricominceranno a scendere gli indicatori della borsa, perché insomma ci ha rappresentato Carlo il ciclo economico come sempre si concretizza, immagino, forse con delle tendenze un po' più violente in queste ultime fasi, perché la crisi ha provocato anche questo. Però Carlo è partito da un presupposto, da un'iniziativa di base, Giorgio Mascheroni, che comunque dal punto di vista della crisi economica non abbiamo ancora visto tutto, ma di questo mi sembrano ben consapevoli tutti quanti, dagli economisti alle massime autorità governative. Barack Obama in primo luogo lo continua a dire, in ogni luogo. No, credo che l'ascoltatore abbia fatto un quadro assolutamente condivisibile e correttissimo. Diciamo che non siamo certo illusi che gli ultimi 10 giorni di borsa ci abbiano fatto vedere una ripresa così interessante che abbia invertito un trend, anche dividendo quello che è oggi la vita nella borsa e quindi nei listini è quella che è la macroeconomia. Sulla macroeconomia indubbiamente gli indicatori continuano a essere negativi. L'unico dato positivo in questa negatività è che cominciamo a vedere a rallentare questa negatività, però sappiamo che gli indici di disoccupazione sono in peggioramento. La disoccupazione è un indicatore importante per tutti noi, ma anche per l'economia, perché meno gente che lavora e meno gente che consuma, quindi c'è qualcun altro in meno che produce. I listini generalmente anticipano i cicli di borsa, è corretto, normalmente di un 4-6 mesi, non sempre succede, soprattutto quando c'è molta sfiducia. È successo anche nell'ultima volta, ovvero nel 2002, non è stato così vero che i listini hanno anticipato la ripresa economica. Noi ci aspettiamo certamente ancora molta volatilità e lo stiamo vedendo, l'indice VIX, quello che misura la volatilità, quindi attesa, è ancora su livelli altissimi. Se pensiamo che mediamente è sotto 20, oggi siamo attorno a 42-43, abbiamo toccato punte di 86, mai successo nella storia borsistica. Vediamo questa volatilità rimarrà, vediamo probabilmente ancora qualche su e giù. È anche vero che c'è stato una ripresa, venuti meno un po' di ribassisti, c'è stato anche il tentativo di correggere situazioni che si erano deteriorate troppo e troppo in fretta, quindi c'è stato un crollo evidentemente sulla sfiducia, anzi sul panico. Probabilmente ci sarà un assestamento, vedremo probabilmente movimenti laterali ancora per un po' di tempo. L'economia è difficile che si riprenda quest'anno, ormai tutti convergono sulla prima parte del 2010, probabilmente gli Stati Uniti partiranno per primi, e quindi inevitabilmente oggi non pensiamo a un'inversione di trend dei mercati, però pensiamo che sia il momento di far tornare un po' più di appetito, magari entrando progressivamente, e qualche investitore saggio lo sta già facendo da un po' di tempo, perché tanto ai minimi non si entra mai, quindi tanto vale entrare quando vediamo che sembra rallentare la diminuzione. Possiamo immaginare che possono essere i minimi. Esattamente. Tra l'altro, nella ricostruzione del circolo virtuoso dell'economia che Carlo da Milano ci ha fatto, secondo me ha saltato un passaggio fondamentale. Lui diceva: l'economia si riprenderà quando le aziende riprenderanno a produrre, riprenderanno a fare richiesta di materie prime, questo rifarà riprendere ovviamente la corsa dei prezzi, dell'inflazione, i tassi, eccetera. Ma in realtà le imprese riprenderanno a fare il loro lavoro quando anche avranno l'adeguato sostegno bancario, che adesso sta mancando. Ecco, Brambilla, vuole così fare un commento magari lei su questo, perché lì mi pare un passaggio fondamentale. Ma sicuramente il vero pericolo di questa situazione è una stretta creditizia, perché ricordiamoci che le banche, che oggi sono sicuramente sotto nell'occhio del ciclone, però hanno una fortissima e importantissima funzione sociale nello sviluppo economico di un paese. È per quello che sicuramente ritengo che la stampa ha molta responsabilità in questo tipo di momento. Che cosa abbiamo fatto? Che cosa dobbiamo fare quindi? Bisognerebbe veramente, ci sono delle banche che sono state mal gestite sicuramente, ma ci sono banche che sono assolutamente sane e non hanno nessun tipo di motivo di essere prese di mira anche dal punto di vista delle vendite, anzi a questi prezzi andrebbero e ma vanno. Ma non credo che debba essere io a dirlo no, ad un investitore. Sicuramente. Questo. Credo che lui conosca i bilanci molto meglio di me. Però più volte in questo anno abbiamo letto molte cose più grandi di quelle che in realtà erano. Nello stesso momento sicuramente il problema vero è il problema dell'economia reale. Generalmente le borse anticipano, se guardiamo le ultime 10 crisi negli ultimi 50 anni, generalmente anticipano di un 6 mesi la ripresa economica. Però ricordiamoci che siamo in un mondo completamente diverso, completamente cambiato, che sta cambiando con una velocità enorme anche dal punto di vista delle variabili che governano i sistemi finanziari. Quindi potrebbe essere, non so, che una ripresa di borsa possa preannunciare una ripresa economica con un anticipo di 3 mesi, così come di un anno. Non è... Io dico non questo. Sono comunque regole sconfessate completamente. Sì. Oggi ci troviamo di fronte a un sistema, a un mercato dove ci sono delle opportunità che difficilmente ricapiteranno nei prossimi 40-50 anni. È come se avessimo di fronte la possibilità di comprarci delle Bentley a un prezzo di Ford. Queste opportunità esistono e sono materiali. Bisogna andare a vederle, bisogna ritornare a guardarle, primo. Seconda cosa, la fiducia è una componente che nel nostro mondo, nel mondo della finanza e quindi degli investimenti, è una componente chiave. La fiducia va maturata, va coltivata. Sicuramente in questo senso intendevo dire che la stampa ha una responsabilità in quest'ottica anche. Diciamo che in questo quadro di confusione generale e crisi generale anche la stampa ha fatto un po' fatica a fare, come dire, a fare, forse non dico correttamente il suo lavoro, ma a poterlo esprimere al meglio, perché insomma correre dietro alle notizie e saperle anche interpretare, data la velocità con cui tra l'altro venivano diffuse soprattutto nei mesi passati, quando sembrava che tutte le banche dovessero fallire da un momento all'altro, insomma anche noi abbiamo vissuto momenti che non le sto a dire da questo microfono come stavamo. Io vi faccio sentire un paio di considerazioni di due ascoltatori, poi andiamo con i suggerimenti per chi è in viaggio e termineremo Salva Danaio con questa bella analisi che stiamo, speriamo almeno, proponendo questa mattina. Carla da Napoli, è preoccupata? Carla? Sì, no, più che preoccupata sono, diciamo, esterrefatta. Ah, per quello che stiamo dicendo noi, no? Penso che... No, assolutamente. No, mi colpisce in tutti questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, sentire assai poco o nulla parlare di quelli che sono i problemi a monte della situazione che stiamo vivendo. Cioè non si fa, diciamo, si vive questa situazione come se fosse quasi una calamità naturale e non si fa nessun certi tipo versi, di considerazione. Sì, no, che per certi versi ci ha travolto così, proprio come uno tsunami, Carla, che proprio esatto, ci manca. Però non è una calamità naturale, è un mondo artificiale, il nostro. Già il termine forse giocare in borsa già la dice lunga su quello che è, diciamo, una specie di, come dire, accettazione di fatalismo, no? Su questi meccanismi, diciamo, del mercato globale, del mercato finanziario, eccetera, eccetera. È assurdo che nella situazione in cui noi oggi ci troviamo non si faccia un minimo di autocritica, un minimo di verifica di quelli che possono essere i meccanismi che ci tutelino da una deflagrazione di queste dimensioni. Cioè si sta considerando la situazione contingente, quando ne usciremo, come ne usciremo, tra quanti mesi, tra quante settimane, ma non si fa nessun tipo di analisi per evitare che ciò riaccada, per evitare per eliminare quelli che sono i meccanismi che, appunto, sentivo le vostre considerazioni prima in merito alla volatilità e alla, diciamo, irrazionalità spesso, no, della borsa. Allora queste cose secondo me andrebbero analizzate sfruttando, diciamo, come dire, i dati che sono derivati da questa crisi e capire quali sono, diciamo, gli elementi eventualmente riduzione, diciamo, delle conseguenze che questi meccanismi possono determinare. Carla, la ringrazio molto per la sua considerazione. Tra l'altro credo che comunque questo meccanismo che lei propone, che è del tutto pertinente, riflessione pertinente, legittima, è un lavoro molto importante da fare. Tutte le autorità di controllo dei mercati finanziari sono assolutamente consapevoli di questo, ma le faccio un esempio tanto per capire quanto sia difficile andare verso questa strada. Basti vedere quanto fanno difficoltà i grandi manager delle grandi banche a rinunciare ai loro bonus. Questo è il grande tema su tutti i giornali di questi giorni, e quindi insomma figuriamoci quanto possano essere almeno in questo momento interessati ad andare oltre, ad andare alle tutele per i più piccoli. Però non so se questa è, come sempre, la banalità giornalistica portata all'estremo, però io ci metto dentro anche questo. Chiudiamo Salva Danaio, andiamo verso la chiusura della nostra trasmissione, e oltre alla bella considerazione fatta dall'ascoltatrice di Napoli, Carla, io ne metto insieme anche un'altra che invece ci arriva al 349-238-6666. Leggo questa, ma molti messaggi hanno questo tenore. Insomma, non perderete mai il vizio ancora a chiedere ai vostri ospiti previsioni, ma tanto le hanno cannate tutte. Allora, chi vuole cominciare da che cosa? Giorgio Mascherone, Deutsche Bank in Italia. No, beh, su quest'ultima considerazione non possiamo certo dare torto. Gli errori sono stati fatti e tanti anche. Qual è la più clamorosa che ha fatto lei? se la ricorda adesso. Boh, bene, ne ho tante, comunque ne prendo una. Io ne ho una buona. Brambilla è avvantaggiato perché se ci riflette. Se ce la vuole raccontare lei? No, prego, lascio la palla volentieri. No, io poi credo, dopo ve la racconto. Credo che noi nel luglio del 2008, e quindi io, interpretando il pensiero della banca, abbiamo detto, secondo noi, il peggio sul subprime è passato. In realtà, in che periodo? Era luglio del 2008. In realtà siamo in buona compagnia, perché lo disse qualcun altro ben più importante di me, ed era il governatore della Banca Centrale Americana. Però purtroppo era molto difficile. Che poi ha lasciato fallire Lehman Brothers. Vabbè, poi facendo bene o facendo male non però lo non ricordavo lo voi prima, forse a beneficio degli ascoltatori, in un vostro articolo qualche mese fa avevo letto appunto questa definizione, che Dio avesse inventato gli economisti per riabilitare i meteorologi. È un po' di vero, c'è anche in questo. Brambilla, ci racconti la sua. Ma la più bella, che credo sia un tocco di soddisfazione per i risparmiatori che stanno soffrendo, ma anche noi nel nostro, sebbene operatori, siamo anche risparmiatori. Il venerdì prima del fallimento di Lehman, che è stato decretato lunedì, con una serie di amici molto vicini alla banca, i manager stavano volando in America per andare a salvarla da Londra. Abbiamo costituito un piccolo fondo e abbiamo comprato Lehman a man bassa, e quindi il lunedì ci siamo trovati tutti a bere quasi alla con sera. Il cartone. Esattamente. Quindi insomma anche noi sbagliamo sicuramente. Quello che c'è però da sottolineare è che a fronte di una crisi del genere dal punto di vista finanziario, oggi veramente siamo di fronte a delle opportunità uniche. Mm-hmm. Quindi bisogna ritornare a guardare ai valori concreti dell'economia. Quello che io voglio però che voi mi aiutiate a dire ai nostri ascoltatori è che sicuramente queste opportunità ci sono, perché ormai veramente abbiamo dei prezzi stracciati in borsa che forse potrebbero anche essere ritoccati ulteriormente a ribasso. Detto questo non significa che adesso tutto il vostro risparmio lo dovete cominciare a riversare in borsa. No, per fortuna che mi è venuta la parola giusta, perché ne avrei usato un'altra, riversare in borsa. Quindi con cautela approcciamo, se abbiamo poi adesso un'ottica di lunghissimo periodo davanti a noi. Sì, o di lunghissimo, ma diciamo medio-lungo periodo. Comunque l'approccio, quello del progressivo, quello che tecnicamente si chiama PAC o piani di accumulo, è sempre quello che per il risparmiatore comune e non solo è più efficace. Si entra poco alla volta, certamente l'hai detto correttamente, non riusciremo mai a prendere i minimi, a entrare i minimi e uscire i massimi, perché questo è un sogno, però entrando progressivamente certamente si media quelli che sono i prezzi più bassi, quindi l'opportunità è veramente molto ghiotta e in questo momento bisogna cercare di sfruttarla, non in maniera speculativa ma in maniera molto intelligente. Oltre al disastro che ha riguardato i titoli finanziari, Mascheroni, c'è un settore che secondo lei è stato più penalizzato rispetto a tanti altri e in maniera del tutto ingiustificata e immeritata? Beh, diciamo che soprattutto tanti titoli italiani, anche quelli legati all'energia, al petrolio, ma diciamo che tutte le realtà, diciamo anche industriali, hanno sofferto molto, e quindi rappresentano certamente un'opportunità. E per chi deve investire, guardiamo anche tutto quello che oggi è infrastrutture, perché i governi nei prossimi anni spenderanno un sacco di soldi sulle infrastrutture, e quindi tutto quello che è legato a costruzioni, opere pubbliche, infrastrutture, e quindi anche nuovamente materie prime, non dimentichiamoci le materie prime, rappresentano una buona opportunità. Bernardino da Milano vuole girare il coltello nella piaga? Sì, io più che presentare la mia opinione volevo chiedere il parere agli ospiti. Mi ricollego al discorso che è stato fatto prima, cioè com'è possibile che eminenti economisti abbiano la gran parte sbagliato le previsioni, e non solo, anche la BCE per esempio, che a luglio incrementa i tassi e poi a settembre... Ah, quella sì, nella rosa delle cose incredibili del 2008, esatto. Delle perle del 2008 è stata... Cioè, qui non parliamo del singolo economista che, diciamo così, può avere una limitata conoscenza. Qui parliamo di un set di economisti che lavorano per la BCE e fanno delle cose del genere. Bernardino, io guardi, prendo questa sua riflessione, ci volevo mettere insieme anche Franco da Siena, poi ci rimangono due minuti, non riesco a far intervenire tutti. Franco, rapidissimo, così poi concludiamo con un minuto a testa per Mascheroni e Brambilla, ci dica. Sì, rapidissimo, ho ascoltato tutta la settimana questioni di borsa su Rai 1. Perché? Ce lo dice così? Ma perché c'era Ferrara di qua, ascolta. E ci ha terrorizzato l'esperto di questa settimana tutti i giorni, invitando a vendere tutti i titoli, invitando a non comprare obbligazioni italiane. Vabbè, adesso volta... a parte il modo con cui viene fatta una trasmissione concorrente, certo. Che vabbè. No, però volevo mi sono rivolta a voi per avere un po' di tranquillità. Già quello che ho sentito finora, un po' più di tranquillità me l'ha data. Beh, no, sì. Perché questo esperto dice che nel secondo semestre del 2009 arriverà la vera tempesta finanziaria. Franco, mamma mia, ci rimane un minuto e qua ci appena un minuto di tempo per chiudere su questo. Marco Brambilla, 30 secondi a lei. Veramente smettiamola con questo terrorismo. Assolutamente non condivido questo tipo di approccio. Ci sono delle opportunità davanti a noi uniche. Bisogna andare a sceglierle, bisogna ritornare a valutare le cose reali. Sicuramente con i prezzi di borsa che abbiamo visto oggi, a cui assistiamo ad oggi, ci sono due soluzioni: o il mondo finirà, e io personalmente non credo che il mondo finirà, oppure bisognerà ritornare a fare le cose con un criterio. La BCE ha sbagliato, ha fatto un errore clamoroso, ma aveva l'inflazione al 4%, poi, il petrolio a 150, in quel momento ha ritenuto di fare il suo lavoro. Perdonami Deborah, poi io non sono molto filo BCE, perché guardare solo l'inflazione è un errore che le banche centrali generalmente pagano. Ancora nello una volta statuto, lo hanno fatto nello statuto, questi qua di Francoforte hanno questo mandato e lo hanno, però adesso insomma ne hanno pagato anche in termini reputazionali, credo, enormemente. Detto questo, Mascherone, non riesco a farlo intervenire, concordo su tutto. Benissimo, vi rinvito presto allora e torneremo anche su questi argomenti e speriamo di non dover di nuovo commentare anche, come dire, il terrorismo psicologico fatto presso altri canali. Non mi mettano più così in imbarazzo i miei amici che seguono Salvadanaio da casa. Grazie a tutti, ci risentiamo lunedì.